Bene, hello everybody, this is Virgo Cavanaugh and you're very welcome to Southside questo giovedì pomeriggio. Abbiamo un'ora della migliore musica e adesso iniziamo subito con Dido and Here With Me. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my Network. Here we are again. Thank you. Chemo Petrol and Child Is My Name, e erano loro che hanno fatto la spalla, il support a Hoover Phonic in questi giorni quando hanno fatto il loro giro dell'Italia, proprio bello bello. Allora, The Dandy Warhols hanno confermato che stanno lavorando con i Massive Attack, infatti esce il 21 maggio il loro nuovo singolo nel Gran Bretagna, si titola Godless, e ci sarà un remix di Massive Attack. Courtney Taylor, il cantante di Dandy Warhols, dice che si sono incontrati l'estate scorso e che proprio li hanno ispirato a cambiare direzione musicale, quindi aspettiamo questa bellezza, eccoli con Godless. Superdino? Superdino, sveglia! Dai, alzati! Fammi giocare! Ehi, Superdino, no! Dai, adesso non fai così, mi fai il solletico! Ho capito che hai voglia di giocare e se fai il bravo ti porto nella foresta! È arrivato Superdino! Viene dal passato per cambiare il futuro! Invia un SMS dal tuo cellulare Omnitel contenente G.M al numero breve 2216. Entrerai nel mondo in play SMS. Suo penultimo album e suo ultimo lavoro, perché suo ultimo album è un album che è uscito tempo fa di nome Lost Songs. Insomma, un po' di confusione lì, però un bel pezzo da David Gray. E andando avanti con la musica, bellissima questa voce di questa ragazza. This is Goldfrapp and Human. Your mouth propelled by your breath and your tongue. I shower when you say, and I fall into change. I think I loved you more than me. My arms still Solomon and Love, eccoci arrivati all'appuntamento di quello che è successo This Day in Music. Allora, il 12 aprile 1967, Paul McCartney stava tornando dall'American Aereo e si è iniziato a scrivere Magical Mystery Tour e tutte queste idee. Noi le facciamo ascoltare adesso Paul McCartney con The Blockheads. Questo è il loro tributo ad Ian Dury che è scomparso l'anno scorso. This is I'm Partial to Your Abracadabra. The most powerful. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, strut, strut, strut. What the... They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

Nord, quelli sono Ash, Shining Light, e con questo chiudiamo la trasmissione di Southside per questo giovedì sera. Voglio ringraziare ad Enzo Bottiglieri, è così che mi ha insegnato il suo nome, scusate ragazzi. This is Fergal Kavanagh, ringrazio a tutti voi che mi avete ascoltato. Se mi volete scrivere è fergal@kisskissnetwork.it. Ragazzi, appuntamento alle ore 18 domani, alla prossima. Southside. Per un'ora Fergal si proietta nelle nuove tendenze. Alle 19 ancora un appuntamento con l'informazione. New. Italia in viaggio, poi parleremo.